L'inverno passa basso in cielo, un vento a strisce viene da lontano. Un cane gli corre dietro storto, leccando i muri della strada. La ragazzina ha un sorriso croccante e un cuore come un melograno. E lui la tiene a paura che gli cada. La ragazza respira distratta e si ravvia i capelli ed i pensieri. Il ragazzo dà una schicchera alla cicca e poi la calcia un po' come una palla. La donna ha messo il suo vestito più magro e un po' più d'allegria negli occhi seri. L'uomo ha lasciato i baffi e la cravatta, gli si rovescia sulla spalla. La ragazzina sembra appesa a un palloncino e sulle guance in fiamme le si accendono domande. La ragazza nell'acqua bella dei suoi occhi chiari di un mare al mattino, e tra i suoi teneri polsi trema già un destino troppo grande. La donna guarda l'uomo e vede un pezzo sua figlia e il loro vecchio modo di chiamarsi e di giocare. La ragazzina sguardi lenti che le cadono giù dalle ciglia, due ali piccole che imparano a volare. La ragazza si volta il vestito, si incolla sulle gambe il seno. Lui si conta le parole in tasca e la sua voce come dietro a un vetro. La donna ha lo stesso odore e il tempo le ha portato qualche anno in meno. Si scalda dentro le mani e resta indietro. La ragazzina e le sue scarpe inglesi schiacciano un fango di cioccolata in un silenzio di gomma americana che butta e prova a fare centro. Per la ragazza il film si ferma di colpo, la verità sul collo è acqua gelata, e tra le labbra secche di cartone un urlo basso sale su da dentro. La donna ride strano e le mancano i ginocchi e stringe l'anima e una vita intera in mezzo ai denti. La ragazzina e il ragazzino hanno una voglia che gli invade gli occhi ed una folla di baci lievi e brevi come cieli di spenti. La ragazza e il suo amore che le muore tra le braccia raccoglie un pezzo di dolore e ci si taglia il cuore. L'uomo e la donna accarezzando il sogno si accarezzano la faccia, confusi stretti in uno stesso batticuore, e due vanno via dentro un'aria tagliente a vetrini di un pomeriggio nudo. Radio dietro alle persiane e tutto il calcio, minuto per minuto.